quando canto mi libero dal laccio del tuo abbraccio. Questo è vero, ma lo faccio non per il timore di sentirmi d'impaccio, ma per tornare là dove poterti immortalare. Sulla tastiera di un pianoforte la mia testa ciondolante, provando ad essere un cantante. E se lo facessi per vanto non sarei certo rinchiuso in uno scantinato intanto. Sarei magari a un matrimonio o ad una comunione, farmi pagare per le cover che scrocca gli applausi e festeggiati a seconda le richieste degli invitati esagitati. Se chiudo gli occhi è per il pudore di mostrarmi per quello che sono, e perché ritorno in quell'istante che le ho volute, anche se alcune le ho perdute. Come parole attescate nell'inganno di un'estate, a volte le ho addomesticate. Quando canto io sono solo ciò che ho dentro, perché là fuori non ci entro. Non mi vergogno se di te ho bisogno, non devo fingere l'orgoglio. Non so se tu mi puoi capire, senza non saprei che fare. Tu pensa al cazzo che ti pare. Canzoni poco note. Idrofia dell'edonismo consumistico. Che un'altra idrofia su un modo, magari stupidamente laica e razionale, ma stupidamente laica e razionale, io ristretta a sé. Questa idrofia tocca a tutti gli italiani. We'll be right back. Perché chi dice che la vita è con la buona medicina? Sembra anche un po'.